Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di politiche industriali, parliamo di industria, parliamo di imprese, parliamo di competizione. Lo facciamo con due ospiti che saluto subito. Il primo è il dottor Giorgio Merli. Buonasera, dottor Merli. Buonasera, dottor Fabi. Giorgio Merli è senior advisor di KPMG, è docente di sociologia di impresa all'Università di Milano Bicocca e ha scritto con Elena Gerosa e Marco Fragonese il libro Surpetere, la competizione creativa, efficace e sostenibile, edito da Guerini e Associati. Invece di un'impresa, di una specifica impresa, la Fiat, parla Giacomo Ferrari. Buonasera Ferrari. Buonasera Gianfranco e buonasera agli ascoltatori. Giacomo Ferrari, giornalista del Corriere della Sera, dove segue soprattutto i fatti di borsa, ha scritto per Daniele Piazza Editore il libro Meno Agnelli, più Fiat, dall'avvocato a Marchionne, cronaca di un cambiamento, prefazione di Mario De Ario, un libro in cui si raccontano gli ultimi anni appunto della grande industria, della grande industria torinese che è stata negli ultimi tempi sulle prime pagine dei giornali, ma soprattutto guardando alle trasformazioni strutturali di questa impresa. Ma io inizierei parlando più in generale dell'economia italiana con Giorgio Merli. Surpetere, ecco, un titolo un po' strano. Che cosa vuol dire innanzitutto? Probabilmente avrebbe dovuto essere, originalmente era surpetition, che in inglese forse rende un po' meglio. E il concetto che si vuole esprimere è che in questo scenario che si è andato a configurare, che penso tutti possiamo condividere che in un qualche modo non è più quello del decennio scorso, bisogna probabilmente cambiare un po' le armi della competizione, anzi il più possibile, in quanto aziende occidentali che difficilmente possono competere magari sui costi e sui prezzi con le aziende dei paesi emergenti, forse andrebbero ricercate leve più innovative, infatti si è parlato tanto di innovazione, che possono mettere in grado le nostre aziende di evitare la concorrenza forte, spietata sui soliti parametri, fattori di qualità, costi e prezzi, ma cercare di proporre un qualcosa che altri paesi, vuoi per incapacità e maturità tecnologica, vuoi per minore interesse, visto che ricercano i grandi volumi, magari non sono in grado di esprimere. Quindi ricercare leve competitive che spiazzino un po' i concorrenti, o meglio, per cercare campi di battaglia in cui la competizione possa essere un po' meno aspra. Quindi andare a cercare cose nuove da proporre, ricercando consumi emergenti, nuove situazioni, eccetera. Ecco, lei parla di competizione creativa, efficace e sostenibile. Questo è rivolto anche alle piccole imprese. Sappiamo che le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia italiana. Anche per le piccole imprese è valida una strategia di questo tipo? Diciamo che doppiamente, perché in realtà è tutto un sistema di PMI italiana che sta entrando un po' in crisi, che è entrata anzi un po' in crisi, e io teorizzo anche con i miei colleghi che occorre attivare in questo momento una strategia che io definisco strabica, come dire che mentre in passato ci potevano essere momenti in cui si poteva investire per il futuro, altri momenti in cui si doveva ricercare magari un recupero di costi per motivi contingenti, siamo attualmente in una situazione in cui le due strategie vanno perseguite contemporaneamente. Da una parte dobbiamo ridurre drasticamente i costi, anche per recuperare disponibilità finanziaria, comunque perché è un must dettato dai cali dei consumi eccetera, dall'altra parte dobbiamo invece riuscire anche a montare un qualche cosa che ci consenta di essere vincenti anche in futuro, e quindi c'è il concetto dalla parte di essere efficaci sul breve, dall'altra di essere sostenibili nel lungo, ma contemporaneamente di essere innovativi, perché non basta perseguire i due fronti in modo tradizionale, bisogna inventarsi perlomeno in parte qualcosa di nuovo rispetto ai paradigmi del passato, vuoi agendo sulle value proposition, sui prodotti e servizi, vuoi agendo specialmente in questo momento sui modelli di business. Ecco, ma le medie aziende italiane, le piccole e medie aziende italiane si stanno muovendo in questa direzione, magari senza saperlo e senza teorizzarlo troppo a livello di strategie manageriali? Che bella domanda. In effetti, guarda, io sono stato coinvolto con l'ingegner Pistorio all'interno di Confindustria, avendo avuto anche un ruolo all'interno di questa organizzazione, è stato coinvolto a gestire workshop su 1300 imprenditori, circa 13 edizioni, 100 imprenditori alla volta, di PMI italiane, in cui si poneva il tema del bisogna innovare, cosa vuol dire innovare, perché ovviamente per la PMI innovare non può significare aspettare la nuova molecola, la nuova tecnologia, per di più l'Italia quando mai è stata così brava da inventare tecnologie di base a leva temporale lunga, piuttosto è stata brava in innovare fatti operativi, in applicazioni, eccetera, eccetera. Quindi con questi imprenditori si andava a esaminare cosa vuol dire innovare. Quello che si cercava di trasmettere loro, che si è cercato di trasmettere loro, è che innovare significa a volte semplicemente semplicemente, ad esempio, servitizzare un altro brutto neologismo, trasformare un prodotto in un servizio, cioè vendere il prodotto, se sono grandi, in project financing, come ben sappiamo, ma anche nel piccolo, ad esempio, affittare la macchina anziché venderla, prendendo come fatto compiuto, ormai certo, che buona parte dei prodotti, semidurevoli specialmente, si vendono attraverso il servizio. Se pensiamo alle automobili, mediamente in Europa un'auto su due è venduta come parte di una flotta, non come auto a un cliente finale, addirittura due auto su tre d'Europa, il 29% mi pare in Italia. Quindi l'auto può essere venduta, il prodotto, la macchina, può essere venduta affittandola in senso lato, come parte di una flotta gestita, anzi si vende una flotta gestita, sempre più si vendono flotte gestite, vuoi di computer, vuoi di automobili, vuoi di macchinari, anziché vendere macchine con contratti di assistenza. Ecco, questo è già un concetto innovativo che si può realizzare domani mattina, tra virgolette, laddove riesco a trovare un canale con cui vendo i miei prodotti attraverso la gestione della flotta degli stessi, anziché venderlo come prodotto pagato in quanto tale. Ecco, lei ha introdotto il tema delle automobili, poi magari torneremo anche con lei sul tema Fiat, però proprio dirla Fiat e delle automobili parla il libro di Giacomo Ferrari, dove si dice cronaca di un cambiamento. Allora, Giacomo Ferrari, qual è stato questo cambiamento di fondo della Fiat negli ultimi anni? Ma i cambiamenti sono stati veramente su tanti fronti, perché la storia parte dalla morte dell'avvocato Agnelli e arriva ai giorni nostri. Il primo cambiamento, per esempio, è quello della separazione tra management e proprietà. Allora, ai tempi dell'avvocato Agnelli, la famiglia Agnelli incideva molto di più sulla gestione dell'azienda, del gruppo, tant'è vero che, non so, un manager come Cesare Romiti, che ha guidato la Fiat per tanti anni, è un manager che non ha mai voluto acquistare un'azione della Fiat. Oggi Marchionne alle stock option partecipa, è più manager americano rispetto a un manager italiano, nel senso che dice la proprietà è lì, io faccio voglio fare gli interessi dell'azienda, voglio contribuire a far crescere l'azienda, l'azionista mi deve lasciar fare. E poi il secondo cambiamento è chiaramente la dimensione della Fiat che la storia recente di Marchionne, da quando è arrivato a oggi, ha cambiato, ha fatto diventare più internazionale con l'accordo con la Chrysler, eccetera, e da lì anche un po' il senso del titolo, meno Agnelli più Fiat, cioè Agnelli che contano meno nella gestione, ma anche probabilmente sono destinati a scendere come partecipazione azionaria, e invece in una Fiat molto più grande, molto più internazionale, molto più globalizzata. Quindi insomma i cambiamenti sono tanti. Dopodiché, a proposito del professore che parlava di creatività, lo stesso Marchionne è stato definito da Gabetti, da Gianluigi Gabetti, che è il nome tutelare della famiglia Agnelli, un creativo. Una cosa che a me è piaciuta e che ho voluto che venisse messa nella copertina del libro come slogan: Marchionne è un creativo. Ecco, quindi Marchionne è creativo a livello appunto strutturale, a livello di controllo, a livello di gestione manageriale, tanti cambiamenti. A livello di strategia, Giacomo Ferrari, si può dire che la Fiat si è avviata su una nuova strada? Io penso proprio di sì, perché proprio grazie a questa scommessa pesantissima fatta in America con Chrysler, che comincia a dare i suoi frutti, io lo ritengo sicuramente fattibile questo cambiamento in meglio, in positivo. Certo, è una Fiat diversa da quella che abbiamo conosciuto, è una Fiat diversa anche perché la Fiat pre-Marchionne, quindi parliamo di un decennio fa, era una Fiat che è stata molto spesso assistita dallo Stato. Da Marchionne in poi non c'è stato più un finanziamento, aiuti statali alla Fiat. Ci sono stati, certo, gli incentivi alla rottamazione, che però hanno favorito non solo la Fiat ma tutti i costruttori d'auto, e poi sono cose che hanno fatto in tutti gli altri paesi, l'ha fatto Sarkozy in Francia, è stato fatto in Spagna, eccetera eccetera. Ecco, io vorrei prendere spunto da questo per un'ultima rapida risposta di Giorgio Merli, che peraltro in passato è stato consulente della Fiat. In questa fase ritiene che la Fiat possa rispondere alle esigenze di competizione creativa che sono illustrate nel suo libro? Sì, certamente. assolutamente. Tra l'altro una conferma di quanto diceva il dottor Ferrari, io che ho vissuto la fase precedente posso testimoniare che la famiglia era molto più presente. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, sì certo, se guardiamo ad esempio la struttura che si sta dando Fiat, sicuramente sta realizzando una strategia di allocazione di capacità produttive piuttosto che progettuali nel mondo in unità specializzate, molto specializzate, quindi ci sarà un'integrazione mondiale di aziende che possiamo definire virtuale con centri specializzati per produzione, per progettazione in posti specifici, realizzando quelle economie di scala di conoscenza, di know-how e di produzione che servono in un network globale che è l'unico modo oggi per poter operare globalmente con successo. E c'è da sperare che Fiat, così come l'industria italiana, possa riuscire a sfruttare questa competizione creativa ed avere anche successo, una crescita che si rifletta su tutto il paese. Io ringrazio Giorgio Merli, autore con Elena Gelosa e Marco Fregonese del libro Surpetere, la competizione creativa efficace e sostenibile, edito da Guerini Associati, sono 230 pagine per 24,50 euro, così come ringrazio Giacomo Ferrari, Meno Agnelli, Più Fiat, questo è il libro edito da Daniela Piazza Editore, 124 pagine per 13 euro, due libri che entrano nel merito della realtà industriale italiana. Così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Penizza in redazione, l'appuntamento con i libri di economia è per sabato prossimo.